realtà. Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Quindi ho l'ultima storiella, se la volete sapere. Sì, sì. L'ho raccontata ieri sera tardi. Allora uno dice a una ragazza: ma quanti uomini hai avuto tu? Dice lei, 5. Non sono tanti. Sì, devo ammetterlo, è stata una settimana piuttosto tranquilla. Un'alternativa che nasca dal popolo e che sia per il popolo, una alternativa popolare. È questo il nome che io propongo per il nostro movimento politico, una alternativa popolare. È quello di cui ha bisogno l'Italia. NCD non si scioglie, fa un passo avanti e mette la propria storia a disposizione di tanti altri che con noi vorranno fare questo cammino. Ma così muore l'NCD? Non è che muore, si evolve, la fase politica è nuova. Sì, ma diventa un altro partito? Ma io non esisto. Che ne succede? Non esisto, che mi cancellate l'NCD. Ma stia sereno. Ma le ripeto il motto di Renzi, non stia voglio, sereno. Non voglio, non voglio. È un pilastro della democrazia. Questo è giusto. Che dormo più a notte. Ci credo. Cioè, ma da quando ho saputo stai notizia dormo più a notte? Vuoi che te lo regalo? C'è un libro sul sonno. Fammi tu carezzine, se no sai quanto ne costano le cure e tu dormi in ferro. Però se no ti viene la lomboscia. Però io dici Angelino che non chiude, te prego. Ci proviamo. Io un po' abbiamo ancora qualche ora. Ma l'Italia intera. Però scusa, mi devo riprendere. Many people coming from miles around. Enrico Lucci è un genio. È andato da quelli di Alternativa Popolare, il nuovo partito d'Alfano, disperato. No? Chiude NCD, come faremo? È una disperazione, effettivamente. Una disperazione vera, nuovo centrodestra di Alfano non c'è più. Ma porca miseria. Dai, fai risuonare Chuck Berry, va, perché... Come dire, non c'è più NCD, ma... Però è nata Alternativa Popolare. Disastri. Ecco. No, vabbè, dai, chi lo sa. Magari prenderanno quel 3%, 4%, dai. In una botta su. Eh sì, alle elezioni. Caro Presidente De Luca, qua la conduzione è quasi pronta, conduzione 4.0 a Vincenzo De Luca. Oggi iniziamo così un po' rock con Chuck Berry che ci ha lasciati a 90 anni. Ma sono cose sconvolgenti. Beh, questa sì, questa sì. Che tristezza. Intanto sappiate che a Padova ci sono 7 gradi, signori, come ci dice Lorenzo, mentre 7 gradi ci sono anche a San Pellegrino Terme, ce lo dice Marco, il nostro ciclista. A Fimon, sui Colli Iberici, a Vicenza, 7 gradi e tanto sonno. A Roma 13 gradi e mezzo, signori. Mentre dalla città del mio amico De Luca, quindi immagino da Salerno, 13 gradi. E stasera forza salernitana, vabbè, non lo so. 14 gradi a Reggio Calabria, signori. mentre ci sono a Ciorlano 5 gradi. Che è? Iniziate? Iniziate Ciorlano. Guarda un po', Lorenzo, che questo Enzo se mi ha detto una roba falsa. Ciorlano 5 gradi, andiamo a prenderlo. Caserta. Vabbè, la risposta bianconera c'è, Samoa pronto a ricevere. Ragazzi, eccolo il cross, palle. Dentro per Cuadrado, la firma di Cuadrado. Signori, oggi è la giornata mondiale della felicità. Cioè, vi rendete conto, la giornata mondiale della felicità si festeggia oggi un lunedì. Cioè, c'è qualcosa che non va. Un lunedì, la giornata mondiale della felicità, il giorno dopo la vittoria della Juve. Vi rendete conto? Speriamo che il Barcellona ripristini tutti i livelli, tutte le graduatorie calcistiche, ristabilisca insomma chi è il più forte e chi è il meno forte, anche un po' chi ruba un po' di più e chi ruba un po' di meno. Il Barcellona, insomma. Vero Mariona Dinolfi? Sei pronto? Pensa se eliminiamo il Barcellona, pensa come starei male, No, ma no, se eliminerete il Barcellona dirò bravi e verrò con la maglietta del Barcellona comunque in onda. Ecco, vedi, bravo, questo ci dà una motivazione in più, una spinta in più. Bravo. Scusa, un po' in ritardo, ti faccio sapere che a Berna, la nostra ascoltatrice che ci segue da Berna, dice che ci sono 7 gradi anche a Berna, capito? A Berna. È un'emigrata. In Svizzera. Probabilmente i pavimenti. No, che lava i pavimenti, sarà sicuramente tipo pane e cioccolato. No. Attenzione, arriva subito anche il nostro ascoltatore fisso da Chennai, India. Rifornimento di fumo, ma perché uno non può vivere da paura, ma perché uno non può vivere a Chennai secondo te? Ma perché non c'è ragione, insomma, sei italiano ma vive a Chennai e allora ha trovato la sua strada a Chennai Sì, ha trovato la strada per il fumo, vabbè, ecco lì. Vabbè, dai, c'è Mariona Dinolfi, avete capito, direttore della Croce, insieme a lui c'è Angelo Maria Perrino, direttore di affariitaliani.it, che salutiamo, buongiorno. Eccoci. buongiorno a voi. Ma se non sbaglio gobbo anche lui. Sì, anch'io festeggio il giorno della felicità doppia. Mamma mia, ragazzi, c'è un altro gobbo. Beh, siamo 9 milioni, non è proprio una cosa. Sì, infatti, vai a trovare. Infatti, tempi di Sivori. Ai tempi di Sivori. Ah, è vero che c'è anche il profilo Twitter legato a Sivori, sì. È fantastico. Cioè, il Capezzone lo chiamavano. Sì, vabbè. Vabbè, questo momento di tristezza nella giornata mondiale della felicità possiamo archiviarlo e andare avanti? Andiamo avanti al Parlamento, dai, su. Allora, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io ricordo bene. Ma... ragazzi, quando c'è Berlusconi che torna a fare le barzellette è fantastico, vuol dire che stiamo proprio in piena campagna elettorale. Questa non era neanche male, questa di Berlusconi. Faceva scompisciare, esatto, la cosa più divertente sono tutti quelli intorno che ridono, Sì. Brava! Ha raccontato una barzelletta. Tra l'altro è bellissimo perché Berlusconi ha capito adesso che siamo un paese per vecchi e quindi propone dentiere per tutti e che ci sono quelli che amano gli animali e quindi gli animali sono esseri senzienti, vanno aiutati, chi uccide un animale deve andare in galera. Cioè, è fantastico, c'è proprio... vedi dove tira il vento, legge degli articoli e via. Dentiere e animali, questa è la... Sono i sondaggisti che gli danno gli spunti. Su dentiere e animali, no? Sì. I vecchi e animali, insomma. Ben distinti, nel senso sono due cose diverse, insomma. I vecchi da una parte e gli animali dall'altra. Allora, caro Marione, qual è la notizia politica del giorno? Non certo Alternativa Popolare che nasce, non certo le barzellette di Berlusconi. Che sta succedendo? Che sta succedendo in Italia? Che sta succedendo in Italia? Non lo so. Leggiamo stancamente verso il 2018, che noia. Ma infatti... avevo le amministrative un po' così, insomma, in cui si vota in pochi posti, senza darci tanto tasso, i referendum ci hanno tolti. Quindi niente, un anno di gentilonismo, ecco bravo, un po', bravo, un po' beneducato, un po' noioso, un po' così, insomma. Non parleremo di politica, ci tocca parlare di barzellette. No, ma infatti è così, avremo Enrico Lucci, quella che sta a Berna, come al solito. Vabbè, no. Dai Enrico Lucesso, tu lo so, tu odi le Iene, ma tanto le Iene non c'è. Fa le Iene, non c'è più, non c'è più. Vabbè, però rappresenta un po' le Iene. Adesso ce lo devi dire cosa è successo con le Iene, tra poco ce lo dice. Perrino, che succede politicamente? Effettivamente è una roba di una noia mortale, manca un anno alle elezioni e nascono il partito, Berlusconi che ritorna. Ma guarda, il tema di Alfano non mi sembra proprio, insomma, peregrino, perché vabbè, intanto la motivazione dello scioglimento di NCD è veramente sconcertante. Dicevano a sinistra, non possiamo allearci con un partito che si chiami Nuovo Centrodestra. E quindi cosa hanno fatto? Hanno cambiato il nome, fantastico, all'italiana. Sì. Però ciò premesso, il tentativo di Alfano di collocarsi al centro in una prospettiva proporzionalista è molto interessante, cioè lui potrebbe diventare quel lago della bilancia che può allearsi con la destra o di là, con la di sinistra, qua o di là. Che è stato da sempre in epoca precedente proporzionalista il vero, diciamo, asset fondamentale della politica italiana. Ricordiamoci Bossi, che ha portato la Lega al massimo fulgore proprio quando riusciva a fare governo. Cioè, ci sta dicendo Perrino che in realtà Alfano ha fatto una mossa politica intelligente. Secondo me sì. Si è tolto il nome centrodestra e sta lì, pronto ad andare di qua o di là. Potrebbe dare, sì, i voti che mancano a Renzi o i voti che mancano a Berlusconi Salvini per fare un governo. Deve portare a casa un po' di voti, però, un po' più di quelli che ha. Prima deve farli, insomma. Sì. Capito, Adinolfi? Le premesse, l'Italia si governa dal centro. È sì, chiaro. Questa non l'avevi neanche studiata neanche te, Adinolfi, l'avevi capito? Non l'avevo studiata neanche te, do lezioni a dopo scuola di questa roba, insomma. Non l'ho studiata neanche te. In realtà i voti di Alfano non basteranno, non sono ago della bilancia, gli aghi della bilancia hanno una consistenza significativa, la polverizzazione del tripolare del sistema politico italiano non è più un sistema bipolare dove basta avere appunto 3% essere determinanti, serve una consistenza che Alfano non ha. Alfano deve tanto riuscire a fare il 3%. Ammesso che riesca a fare il 3%, prende 19-20 deputati. 19-20 deputati devi preventivare una forza che abbia una realtà di 300 deputati eletti per fare poi una maggioranza. Sì. E chi è oggi che fa 300 deputati? Non ci sono. La verità è che noi avremo una condizione, se queste sono le leggi elettorali, che ricordo sono due leggi elettorali distinte per Camera e Senato, con logiche completamente diverse. Il Senato ha le coalizioni ancora, nessuno si ricorda questo, ma quello che emerge dal Senato è la necessità aggregativa che invece la Camera non ha. Quindi sostanzialmente è matematicamente impossibile che nasca un governo. Cioè, capito, stiamo spiegando. Avremo condizione spagnola, andremo alle elezioni tre volte di seguito. Tecnicismi di campagna elettorale. Però ci sono due messaggi, Marione, che ti devo sottoporre. No. Il primo, il nazi Adinolfi non lo voglio più ascoltare su Radio 24. Nazi? Nazia Adinolfi. Oppure lo pagate? Non so, puoi confermare che non ti paghiamo? Ho molto dei soldi. No. Ma è 6:30 di mattina, perché ovviamente altrimenti, ma che cacchio faccio a fare per Sandro Milan? E invece no. Un botto di soldi. E invece no. È tutta gratis. Figurati se pago uno Juventino. Sono gli Juventini in genere che pagano. Va bene, questa è bruttissima. Questa la cancelliamo. Questa non era male, questa mi è venuta così. Poi mi chiedono anche, Juventino da 48 anni, ma se avessi la certezza di non sentirlo più su Radio 24 inizierei a tifare Milan. Ovviamente parla di Adinolfi. Su questa potrei vacillare. Signori, no, io vi voglio chiedere questo. Allora, oggi ancora c'è la solita solfa quando si parla di migranti. Oggi arriva forse il premier libico, secondo alcuni, in Italia, secondo altri non viene per motivi di sicurezza, eccetera. Che cosa, allora, Perrino, che cosa vogliono quelli della Libia sempre, quando si parla, dobbiamo fermare i migranti, mettono la lista della spesa, come, se, come andare al supermercato. Allora, ci servono elicotteri, basi navali, fuoristrada, ambulanze, postazioni, radar, cioè ci fanno, praticamente noi da 30 anni ricostruiamo la Libia, no? Così. No, gli diamo infrastrutture, gli diamo soldi, tutto così, a gratis. E non si risolve nulla. Il pallino ce l'hanno in mano loro e ovviamente fanno pesare questa loro forza. Ma basta. E noi sappiamo che quando ci fu l'accordo con la Libia, prima della scomparsa di Gheddafi, la situazione si era abbastanza tranquillizzata, erano i tempi di Maroni, ministro dell'interno, e insomma l'accordo fu efficace. Ora si cerca di ripercorrere quello stesso meccanismo, però la Libia è cambiata, non c'è più. Ho capito, ma c'era Gheddafi, gli davamo le cose, non è servito a niente. C'erano gli altri, volta, gli davamo. Gheddafi rappresentava tutta la Libia, adesso lì sono. Sì, ma anche lui ci chiedeva, no, prima ce lo chiedeva perché eravamo stati certo colonizzatori, adesso ce lo chiedono sì, perché dobbiamo controllare le coste. Continuava a fornire mezzi, soldi, 800 milioni di spese, cioè non è che queste cose sono a gratis. E d'altra parte, se hanno loro in mano il gioco, non possiamo che sottostare se vogliamo recuperare. Ah, va bene, capito. Il controllo del Adinolfi, sottostai alla Libia, sottomettiti alla Libia, alle richieste della Libia. Questo è dato di fatto. Gheddafi era efficacissimo. Gheddafi funzionava come tutti i dittatori. Esatto. Riusciva a gestire perfettamente la gestione, la vicenda coste libiche, in maniera anche estremamente brutale. Questa è una pagina però sempre poco raccontata, ma Gheddafi era di un'efficacia spaventosa. Mm-hmm. Pagava un miliardo di euro l'anno sostanzialmente, ma il lavoro lo sapeva fare. Mm. Il problema è oggi che parli col premier libico e non sai chi rappresenta. Sì, esatto. Questo è intanto gli dai un po' di elicotteri, robe. E quindi diciamo il tema fondamentale è lì, è il controllo non del territorio, ma proprio della capacità di gestire una tratto di costa che tanto è molto ampio e su cui loro non hanno neanche giurisdizione per molti loro spezzoni del tratto di costa. Quindi, d'altra parte, gli sbarchi da lì continuano a crescere. Gli ultimi numeri del Ministero dell'Interno dicono con chiarezza: fino a marzo 2017 16.206 stranieri a fronte degli 11.009 del 2016. Eh sì, quest'anno arriveremo a 200.000 quest'anno. E Ale, intanto andiamo al traffico, poi dovete preparare le palette da 0 a 10 il voto, perché si canta come al solito, e poi voglio capire, Marione, che è successo con le Iene, che ti hanno fatto un po' arrabbiare. Non mi toccare le Iene, Nadia Toffa, stai bravo, tra poco. Ciao Milan, intanto che aspettiamo che danno un rigore alla Juve, siamo già al 97esimo, niente, manda il traffico, dai, tanto c'è ancora un po' da giocare, dai, traffico, aspetta, rigore, traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno, bredaportoni.com vi presenta... Ma ci vogliamo rendere conto che Di Maio è vicepresidente della Camera e giustifica, per non dire incoraggia, la violenza? Bello il suo senso dell'istituzione, eh? Caro Milan, sei diventato insopportabile, non so cosa ti è successo, sei davvero odioso. Milan, la colpa di voi giornalisti, che siete dei leccaculo! Ciao Milan! Il Movimento 5 Stelle, la prima cosa che devi tutelare è appunto il movimento in quella vasca di squali, per cui quando c'è un dubbio che magari una lista non sia del tutto sicura, Beppe, che è il nostro garante, ha preso questa decisione e io sono d'accordo e soprattutto mi fido di Beppe di questa roba. Chi conosce un po' i territori sa che ci sono alcune persone che formano determinate liste che non sono del tutto in linea con la lotta, piuttosto che avere il rischio di ritrovarseli magari al gruppo misto e qualche settimana dopo si prende questa decisione. È così Di Battista spiega perché a Genova praticamente hanno fatto, ha vinto qualcuno, è arrivato Beppe Grillo, ha detto non mi piace, cioè, questo è il concetto, non mi piace, quindi si rifà tutto. Ti è piaciuto, Marione, il lancio del traffico? Oggi è la giornata della felicità, ragazzi, mi hanno mandato dei messaggi che mi mettono di buon umore proprio in segreteria. Ti piace, hai educato il gusto del tuo pubblico, ora, a tua immagine somigliante, ho detto tutto. No, vabbè, certo. Perrino, tu ti va bene così? Tu sei della Juve, sei sereno, Perrino? Sei tranquillo? Sei... Beh sì, alla vigilia del successo prevedibile col Barcellona, certamente. Sì. Non mi riferivo a quello, parlavo di valori, etica, morale. Sì. Felice è una parola difficile, diciamo sereno, positivo rispetto alla vita. Ottimo, sì. Ottimo, questo è importante, perché è la giornata mondiale della felicità. Questo. Sentite un po', ma tutto bene Beppe Grillo che fa così? Marione, va bene? Cioè, nel senso, Beppe Grillo che cancella le primarie? Il movimento si governa solo così. Lo so, questo io lo dico da anni. Lo dico. Possibilità. Se vuoi fare un movimento di quel genere lo puoi governare solo così, è la democrazia diretta da Grillo, e non c'è neanche mezza possibilità. Lenin lo insegna dal 1917, è passato un secolo e non si governa diversamente un movimento sedicente. Io infatti con affetto su Twitter, adesso da un po' che non lo faccio, ma lo dovrei rifare, lo chiamo Kim Jong Grill da un po' di tempo. E noi lo chiamiamo il federale. Il federale, sì, ma è così, cioè nel senso, piaccia o no, è così, cioè un movimento che non ha una storia, nel senso che non ha una storia, non ha scuole politiche, non ha, è nato su basi diverse, o lo controlli in questo modo, per cui una cosa non ti piace, non ti piace, poi l'ammanti di democrazia, fai finta che no, abbiamo fatto una consultazione, sì, la racconti, ma o così oppure salta tutto, o no Perrino, salta tutto se no. Sì, però voglio capire poi alla fine il risultato netto quale possa essere. E quello si vede quando e dove governano, i cittadini giudicano poi. Appunto, e come si vede laddove governano i risultati sono disastrosi. Quindi, ma sai che su questo non sono d'accordo, cioè non lo so, perché a Roma è un disastro, ma adesso è un disastro. Beh, insomma, mi pare che a Roma non stiano combinando niente, no? La Raggi oramai, poverina, rimane in piedi perché così doveva essere, ma le vicende accadute intorno a lei sono sconcertanti e non sono finite, perché ricordiamoci che c'è un processo alle viste. Sì, ma io non lo so, cioè se sono, cioè non sono così tranciano, non lo so, non sono di Livorno, a Livorno c'è uno del 5 Stelle, è così un disastro? Non lo so, livornesi. No, i 5 Stelle vincono perché gli altri sono peggio di loro, ma in sé non rassicurano questi loro processi interni. Questo si vedrà, non so. Ma Marione, è un disastro Roma? Beh, Roma non sta dando prova di sé. Secondo me c'è una grande incapacità di lettura politica dei bisogni. Questo è un elemento grave. Quando hai le condizioni per prepararti a governare per così lungo tempo, a Roma si diceva che i grillini avrebbero vinto da anni, diciamo così. Sì. No? E la crisi di Marino, il commissariamento, tu ti devi preparare. Sembra che invece tutto sia abbastanza improvvisato, ripeto, non è leggibile un disegno politico complessivo. Sì. Per esempio, va detto che Roma è estremamente difficile, è un luogo complicato. Sì, diciamo così, rimandata a settembre, però aspetta. Chiara Appendino, che è invece installata in un sistema dove la città funzionava anche grazie a, diciamo, sta andando meglio, esatto, governa meglio a Torino. Allora, palette da 0 a 10, c'è Beatrice Lorenzin che viene fatta cantare da quelli dal Satanasso di Radio Rock. Di vita permanente. Urca. Che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Gente. Avrei bisogno di circoncentro di gravità permanente. Che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Io lo cerco, poi vediamo se lo trovo. Allora, ministro, la domanda sola. Adesso Alternativa Popolare è sì. questo centro di gravità della politica italiana. Questa sì. mi sembra un'ottima definizione, sì, secondo me Banchetto certo, si arrabbia. Certo. Passa lupi. Cerco un centro di gravità permanente, sono stonato, che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di un cerco, un centro di gravità permanente. Marione, che non mi faccia mai cosa? Cambiare idea. Ammazza, mamma mia. Ma che è? E non è difficile, insomma. Figure di vengono a cantare Stairway to Heaven. Ma questo, insomma, cioè, mamma. Passiamo ai Queen. Passiamo ai Queen. No, dai, date un voto veloce, Perrino. Voto. Ma la Lorenzin, direi, si è ripresa poi nel finale. Sì. Direi 4, ecco. Capisci? Lupi 2. Lupi 2. Proprio in, non qualificabile. Ma... non dai, facciamo questi voti anche per Adinolfi. Marione, mi devi dire qualcosa delle Iene, ma la prossima volta, dai, tienitela lì in canna. La prossima, ciao. Ciao. Tra noi si scherzava a raccogliere ortiche. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Signori, sono le 7:20 minuti, dai che è lunedì, vi vedo un po' stanchi, un po' bolsi, un po' lenti, un po' rallentati nelle vostre colazioni, nelle vostre faccende quotidiane. Forza, forza che si appresta. Vi apprestate a una settimana leggera, pesante? Signori, è la giornata mondiale della felicità oggi, lunedì. La giornata mondiale della felicità. Oh, devo fare un annuncio. Torna Platone, la caverna dell'informazione. È l'ultimo spettacolo della stagione. Domenica prossima, 26 marzo, dalle 19:45 l'aperitivo, dalle 20:45 lo spettacolo. Siamo sempre al Teatro Manzoni di Milano. Leonardo Manera, io, tanti comici. Questa volta ci sarà anche Andrea Scanzi con noi. E anche questa settimana regaliamo 10 biglietti per portare 5 coppie a teatro. Noi siamo democratici, 5 coppie, potete venire marito e moglie, fidanzati, amanti, amici, coppie di fatto, unioni civili, non importa, insomma, 2 persone, 5 coppie, come le volete comporre. E come si fa? Beh, con la rassegna stampa di 24 mattino. E attenzione, dovete darci un bel titolo e sarà proprio la prima notizia che vi darò. Dai, andiamo Peter, vai. Buongiorno a tutti, sono Nicky Vendola. Anch'io la mattina mentre do la pampa a Tobia spesso ascolto Alessandro Milan. E ciccoso proprio. Ecco, vedete appunto, noi di qualsiasi tipo coppia di biglietti a chiunque senza alcun problema. Lunedì 20 marzo, intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore, pensioni, caccia all'anticipo aspettando il debutto dell'Ape. Questo è il titolo di prima pagina, ma la maggior parte dei quotidiani si concentra sulla vicenda migranti, anche perché oggi c'è un vertice a Roma importante. Libia, i segreti dell'accordo, è l'apertura del Corriere della Sera. Tripoli vuole 20 navi e 4 elicotteri dall'Italia. Tra l'altro gli sbarchi dal 2016 sono raddoppiati. Il Messaggero invece, migranti, l'accordo è in bilico. Oggi il vertice a Roma tra Europa, Libia e Tunisia per la firma dell'intesa sul blocco degli arrivi. Il Giornale, gli immigrati invadono anche i tribunali, giustizia paralizzata dai migranti, gli italiani restano in coda. Mentre Repubblica apre su mamme, il bonus sparito, ma anche l'aspetto politico su Minzolini, scontro nel PD. La Stampa, Gentiloni, ora avanti le riforme contro lo stallo. Il suo governo è al giro di boa dei 100 giorni. Queste sono alcune delle aperture, ma appunto voglio subito iniziare con il gioco. Vi do una notizia, la notizia in realtà già ve l'ho data, è la giornata mondiale della felicità. Alcuni quotidiani, a me sembra tutto incredibile. Cioè, c'è un rapporto dell'ONU che stabilisce e fotografa la felicità nel mondo per dire che in Islanda si sta più felici e noi siamo 48esimi, veniamo dopo l'Uzbekistan. La Norvegia è al primo posto, la Danimarca è seconda, l'Islanda terza, poi ci saranno degli islandesi depressi, tristissimi, ci sono degli italiani al 48esimo posto che saranno allegri, al settimo cielo, eppure così. Ci sono queste inutili classifiche giusto per far titolare qualche giornale, d'altronde hanno fatto la giornata mondiale della felicità. Sappiate che il titolo Alla ricerca della felicità è il titolo del Corriere della Sera, quindi non lo copiate. Dovete, se volete vincere, due coppie oggi di biglietti per Platone, quindi oggi portiamo quattro persone a teatro, darmi un bel titolo su questa storia della ricerca della felicità e il fatto che è la giornata mondiale della felicità, e mandatelo al 349-238-6666. Questo è il numero, via SMS, via WhatsApp. Diteci come vi chiamate, da dove scrivete, come dico sempre, meglio premiare, cercheremo di dare e omaggiare i biglietti a due della zona Milano e dintorni, più che di Canicattì, cercate di capire. D'altronde, a nostro insindacabile giudizio, il premio al titolo migliore, mandatelo lì, sulla ricerca della felicità e sul fatto che oggi sia la giornata mondiale della felicità. Dicevamo, però, molti quotidiani aprono su questa vicenda dei migranti. Oggi c'è il vertice a Roma e guardate, quotidiano che vai, sorpresa che trovi, perché il Corriere della Sera scrive che, e lo fa Fiorenza Sarzanini in prima pagina, poi pagina 2 e 3 del Corriere, ci sono le richieste libiche per cercare di porre un freno agli sbarchi, o meglio alle partenze dalla Libia. 10 navi per la ricerca e il soccorso, 10 motovedette che devono essere utilizzate per i controlli sotto costa, 4 elicotteri, 24 gommoni, 10 ambulanze, 30 jeep, 15 automobili, 30 telefoni satellitari, mute da sub, bombole per l'ossigeno, binocoli diurni e notturni. Questa è proprio la lista della spesa che chiede la Libia per controllare e fermare i viaggi dei migranti verso l'Italia e l'Europa. Bruxelles ha già stanziato 200 milioni in via d'urgenza, ma questa lista comporta una spesa di 800 milioni di euro. Ecco tutto il piano: gommoni, elicotteri, sala radar per la Libia, piano da 800 milioni. Oggi c'è al vertice a Roma con Minniti e i leader dell'Unione Europea, atteso anche il premier libico Sarraj. Già si va sulla stampa e si legge: Sarraj diserta la missione a Roma. Pagina 10, perché ci sono degli scontri a Tripoli, la situazione politica non è delle più rosee dal punto di vista degli scontri sul terreno, e quindi queste crescenti tensioni, racconta Francesco Semprini a pagina 10 della stampa, queste crescenti tensioni, l'acuirsi degli scontri tra formazioni armate a Tripoli hanno costretto il premier del governo Fayez al-Sarraj a rinunciare a partecipare alla missione in Italia, missione prevista per oggi, ma che il leader libico preferisce non guidare personalmente. Quindi già c'è il giallo, verrà o no Sarraj, ma comunque c'è soprattutto questa lista della spesa molto corposa. Il Messaggero titola addirittura che questo piano, questo accordo è in bilico, titolo principale di prima pagina. Europa, Libia e Tunisia firmano a Roma oggi il testo per bloccare gli arrivi irregolari, documento di 8 punti che con l'appoggio dell'Unione Europea sarà l'atto fondativo di un gruppo di contatto permanente, ma l'accordo è in bilico. Pagina 2 e 3 del Messaggero. Staremo a vedere. In tutto questo il giornale ha un'apertura dedicata al tema migranti, ma su un altro fronte già affrontato varie volte in Italia, cioè il problema tribunali, dove giacciono circa 50.000 richieste di asilo da parte di immigrati. L'invasione dei migranti, tribunali paralizzati dai ricorsi. E c'è un'intervista a Maria Rosaria Sodano, che è giudice alla Corte d'Appello di Milano, intervistata da Stefano Zurlo, è una formatrice della Scuola Superiore della Magistratura e dice: ci sono colleghi esausti, il carico di lavoro portato dai migranti è insostenibile, particolarmente la quinta sezione civile è l'epicentro di questa emergenza. Sappiamo che i ricorsi arrivati alla Corte d'Appello al 31 dicembre scorso erano 1184, ma purtroppo superato dagli avvenimenti. Oggi c'è una crescita esponenziale. I colleghi della quinta sezione mi dicono che le pratiche in questi primi mesi del 2017 sono decuplicate. È una valanga che ci viene addosso, colpisce in particolare la quinta sezione civile, che si salva solo grazie ai giudici ausiliari, avvocati utilizzati come giudici, perché i togati da soli non ce la possono fare. E questa è la situazione. Con 4 gradi di giudizio, questo è l'allarme, i tempi si allungano perché c'è corso, ricorso, terzo grado, la Cassazione, e poi si fa ricorso in Europa. E quindi questo paralizza letteralmente i tribunali. Questa è la denuncia di un giudice a Milano. Mentre sempre su questo tema, il Messaggero intervista fa un viaggio con Cristiano Tinazzi sull'Aquarius. È una nave dei Medici Senza Frontiere che fa i salvataggi in Sicilia. Noi che tiriamo fuori i profughi dall'inferno. Parlano i soccorritori. Il viaggio sull'Aquarius, la nave dei salvataggi del Canale di Sicilia, e ve lo segnalo a pagina 3 del Messaggero, perché poi si tocca con mano cosa vuol dire lavorare sul campo, in questo caso il campo è il mare. Mar Mediterraneo, per capire cosa succede poi concretamente tutti i giorni. Va bene, siamo all'articolo che mi fa della giornata, l'articolo da Mani sul Volante. Siamo o no il paese delle raccomandazioni? Domanda retorica. Ebbene, oggi Repubblica, pagina 14 e 15, tira fuori dai faldoni dell'archivio di Stato, con Matteo Pucciarelli, tutta una serie di missive, di lettere firmate. È uno spaccato di storia contemporanea rimasto per 35 anni dentro uno sgabuzzino gelosamente custodito, ora finisce su Repubblica. Sono soprattutto i vecchi potenti della DC, della Democrazia Cristiana, che raccomandavano, che ne so, il signor Paolo M. da Latina, che ha in corso presso codesto ente una domanda di assunzione. È possibile accontentarlo? Firmato Giulio Andreotti. Oppure: mi consenta di segnalarle, per quanto riguarda le istituzioni di diritto romano, il professor Emilio B., firmato Aldo Moro. E ancora: ti unisco l'appunto relativo al signor Ignazio S., ti prego di un particolare interessamento in suo favore, firmato Oscar Luigi Scalfaro. Una buona parola per tutti da Andreotti, ma risalendo fino a Giolitti, le suppliche degli italiani ai politici per posti e case. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che, quando queste cose capitano, dice: sono cose che capitano. State ascoltando un programma offerto da Office 365, il tuo ufficio sempre con te. Provalo a un euro. Vai su aruba.it. Alessandro Milan, l'acchiappino di Radio 24. Va bene, alle 7:36 minuti. Allora, state mandando tantissimi titoli per vincere oggi 4 biglietti che porteranno a teatro, porteranno 2 coppie di voi a teatro domenica sera, Teatro Manzoni di Milano, ritorna Platone, la giornata mondiale della felicità, è su questo che vi ho chiesto un titolo. Mandatelo al 349-238-6666 via WhatsApp o via SMS, diteci da dove ce lo scrivete, perché insomma i due più simpatici a nostro insindacabile giudizio vinceranno queste 2 coppie di biglietti. Allora, signori, per i migranti devo anche segnalare un altro articolo molto interessante sulla Stampa in prima pace. Francesca Paci racconta un viaggio nelle foreste tra Turchia e Bulgaria, dove c'è un gruppo di volontari guidati da un ex ufficiale dell'esercito in pensione che fermano i migranti. Qui fermiamo l'invasione dell'Islam, muratori, avvocati, in tuta mimetica. Come dei veri paramilitari presidiano i confini, dicendo il governo di Sofia non fa nulla e noi volontari difendiamo l'Europa. Ovviamente è un'iniziativa illegale o al limite della legalità, ma questo racconta il senso anche di un popolo che in questo caso tra Bulgaria e Turchia si mobilita per cercare di dare uno stop all'immigrazione incontrollata. Oh, voglio venire a cose italiane, saltare sulla prima pagina di Repubblica che oggi mette in luce un giallo. Mamme, il bonus sparito. Questo è il titolo che trovate in prima pagina su Repubblica. Di cosa si tratta? Filippo Santelli racconta i dettagli a pagina 2. Il bonus alle mamme annunciato e scomparso. E caccia agli 800 euro. Era un'operazione da 600 milioni che doveva scattare il 1 gennaio. Ma per ora è nulla di fatto. 600 milioni stanziati dando 800 euro di bonus, chiamato Mamma Domani, un bonus per le prime spese legate agli esami preparto, i farmaci, il passeggino, la culla, i vestiti, insomma le prime spese per un bambino, una bambina che nasce. Solo che a oggi, fa sapere Repubblica, del modulo per fare domanda non c'è neanche l'ombra. All'INPS dicono saperlo quando arriverà. Insomma, cascano tutti dalle nuvole. Il ministro Costa, ministro per la famiglia, dice sì, ci sarà questo bonus. Intanto si accumulano le domande. L'INPS ne sa zero, praticamente, fa sapere Repubblica, e quindi c'è un giallo su questo bonus. Tra l'altro, sapete molto che si parla di denatalità, si è molto parlato, anche l'ultimo rapporto dell'Istat è impietoso nei nostri confronti. Allora, tra l'altro, il Corriere della Sera fa un viaggio con Candida Morvillo dove a Bolzano, dove invece ci sono degli indici di natalità ben superiori rispetto alla media di tutto il resto d'Italia, nell'unica provincia dove le nascite sono in aumento. C'è un viaggio per cercare di capire. Sì, certo, l'autonomia, sì, certo, molti sussidi, ma raccontano le mamme anche progetti di vita, una qualità della vita evidentemente più alta, insomma la voglia di guardare al futuro con più ottimismo e quindi di fare figli. È un viaggio interessante, Candida Morvillo, pagina 23 del Corriere della Sera, vi segnalo, cercare di capire perché, il titolo è Noi mamme di Bolzano, perché a Bolzano c'è voglia di andare in controtendenza. Tra l'altro, sempre su questo tema, vi segnalo al Messaggero, da settembre il bonus per il nido, stipendi esentasse fino a 150 euro. Speriamo che non finisca come il bonus mamme annunciato e sparito, come racconta Repubblica. Ci sarà un ticket da 150 euro per le famiglie che decidono di iscrivere il bambino in una struttura educativa per l'infanzia. Si tratta di un voucher che le imprese pubbliche o private potranno erogare direttamente ai loro dipendenti. Non si parla quindi di aiuto riservato solo agli statali, ma si prevede l'utilizzo del voucher da parte di tutti i datori di lavoro. Per frequentare l'asilo nido arriva il bonus da 150 euro. Questo dal prossimo anno scolastico, settembre. Sarà così? Speriamo e vediamo se succederà. Ho messo la politica un po' in secondo piano perché sono giorni un po' di noia, non ci sono grandi cose. C'è sui giornali ancora la polemica per le nomine che ci sono state nel weekend, le nomine alle grandi imprese, Poste, Eni, Enel. La polemica soprattutto è quanti sono i renziani. Oggi Andrea Ducci sul Corriere della Sera, pagina 13, racconta la carica dei consiglieri con Renzi che blinda i suoi. Osservatori e commentatori si interrogano sulla scelta che colloca un banchiere alla guida di un'azienda che opera nel settore difesa, cioè la scelta di Profumo a Leonardo Finmeccanica. Pura nomina dell'ex premier Renzi o frutto di condivisione tra le diverse sensibilità del Quirinale, del ministro Padoan e dello stesso Renzi? Ecco, su questo ci si interroga. L'intero board dell'Enel, a cominciare dall'amministratore delegato Starace, viene riconfermato. In consiglio resta tra l'altro anche Alberto Bianchi, avvocato, presidente della fondazione Open, cioè la holding politica di Renzi e del renzismo della Leopold. Se ne va, e questo con neanche poche polemiche, Francesco Caio alla guida delle Poste. E lì fa notare, per esempio, il giornale che mette una mappa interattiva, pagina 5, ecco il vero giglio magico di Renzi, le nomine nel giro di pochi chilometri. Alberto Bianchi, appunto, è di Pistoia, il suo avvocato. Matteo Delfante, che è amministratore delegato di Poste al posto di Caio, è di Firenze. E poi Fabrizio Landi, che è nel CDA di Leonardo Finmeccanica, a Siena, quindi appena 84 chilometri. Delfante invece abita a 21 chilometri da Renzi. Marco Seracini, nel collegio sindacale di Eni, anche lui è di Firenze, abita a 21 chilometri da lui. Diva Moriani, nel CDA di Eni, è di Arezzo, a 58 chilometri. Insomma, il vero giglio magico di Renzi, le nomine nel giro di pochi chilometri. Questa invece è l'accusa del giornale, insomma, la politica soprattutto su queste nomine. Ieri Del Rio ha fatto un'intervista dicendo è stato sbagliato difendere Minzolini, e quindi sui giornali ancora le polemiche per la difesa di Minzolini, il voto contro la sua decadenza al Senato da parte di alcuni senatori del PD. C'è il Movimento 5 Stelle che ha le prese con una base litigiosa, così la definisce Grillo, ma insomma le primarie a Genova che non sono andate come voleva Grillo e sono state fatte saltare, Di Battista che dice mi fido di Beppe Grillo, insomma la politica è noia mortale, cose così, cioè che non intercettano gli interessi dei cittadini, quando li intercettano tipo il bonus mamme, scompare il bonus mamme, ma parlano, è nata Alternativa Popolare di Alfano questo weekend, non c'è più NCD ma Alternativa Popolare, cioè tutti che si riposizionano per la campagna elettorale. Berlusconi è tornato a raccontare barzellette, a promettere dentiere per i vecchi e a stare vicino agli animali, perché ha capito che molti italiani amano gli animali e quindi ha detto dobbiamo trattare meglio gli animali. È campagna elettorale pura per un anno a partire da adesso. Una noia mortale. Meno male che ci salva dalla noia Mauro Meazza. Mauro Meazza ha una voce di gran fumatore. Buongiorno. Mauro Meazza ha una voce meravigliosa che non avevamo avuto modo di apprezzare. Me lo fa immaginare più alto, più magro, più giovane. Secondo me a lunedì farai dodecasillabi. Non lo so. Mauro Meazza, signori! Buongiorno, buongiorno. Ringrazio naturalmente tutti gli ascoltatori per questi complimenti che non merito. Sei felice? Sono felicissimo, oggi è la giornata della felicità e quindi ragazzi, come posso non essere felice? Anzi, sono ancora più felice perché vado a leggere, o in meglio, in decasillabi, non vorrei deludere l'ascoltatore, ma vado a dar lettura dei miei 24, non a caso 24, in decasillabi in cui ti segnalo alcune cose del Sole 24 Ore di oggi. Vada. Due cose oggi l'Italia ancora aspetta, sperando che s'avverino nel mese: quell'ape che pensione ti dà in fretta e il closing sospirato col cinese. Sol della prima però ti dirà il sole, mentre dell'altra il tuo poeta ride. 300.001 già la vuole, eppure il bel decreto ancor non vide. Ma ti spieghiamo pure che altri 9 strumenti possono darti scorciatoia. Leggi su carta o tablet che per Giove, forse per altra via, verrà tua gioia. Là su quei fogli che han color salmone spesometro vedrai, e la tassa piatta che vuole conquistare il paperone altri paesi han esche di tal fatta. Avrai l'esperto che risponde a tono su fisco e condominio con dovizia, e poi li dati che aggiornati sono sulle lentezze di nostra giustizia. La cara Europa va per i 60 dal prim trattato che fu gran viatico. Chissà se la mia squadra ancora l'agguanta o se resta attardata in mezzo al traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Andro Milan, lo spaccapettini dell'informazione. Ma perché lo spaccapettini? Allora siamo agli ultimi minuti di rassegna stampa, intanto qualche notizia dall'estero. Fausto Biloslavo sul giornale continua il suo reportage dall'Iraq e soprattutto da Mosul, dove l'ISIS sembra ormai sconfitta. Mosul, ultima trincea del califfo, l'assalto alla moschea dell'ISIS, è il titolo di pagina 11 del giornale. Fausto Biloslavo racconta: la palla di fuoco rosso esplode verso il cielo per un centinaio di metri. Il boato, lo spostamento d'aria ci investono come il soffio della morte. È un kamikaze al volante della macchina minata che si è fatto esplodere a 200 metri da noi. Dal fuoristrada osserviamo la scena con terrore. Pochi minuti prima gli agenti della polizia si erano messi a urlare «Tre autobombe in arrivo!», facendoci salire in fretta e furia su mezzi per partire a tutta velocità. Nella battaglia di Mosul le bandiere nere lanciano i loro arieti suicidi nel disperato tentativo di fermare l'offensiva delle truppe irachene. Ma ormai, fa sapere Biloslavo in questo reportage, come vedete anche molto sul campo, lo Stato Islamico sta per cedere davanti agli attacchi della coalizione. Se vogliamo invece andare in America, il Corriere della Sera oggi racconta, pagina 17, con Guido Limpio, che è quasi tutto pronto per dare il via al famoso muro, o meglio il completamento del muro, tra Stati Uniti e Messico, nel lunghissimo confine che c'è tra i due paesi. È stato pubblicato il bando per gli appalti, sarà un muro alto 9 metri, dovrà essere con materiale resistente a colpi, a prova di tunnel, 640 imprese rappresentate pronte a lanciarsi nelle gare d'appalto e, come racconta Guido Limpio, l'altezza richiesta appunto di 9 metri, ma in alcuni punti di 5-6 metri, una palizzata che avrà accorgimenti che rendono difficile l'uso di scale, corde, pertiche, tutti i mezzi impiegati nel tentativo di superarlo. Il materiale deve resistere almeno un'ora a colpi che possono creare un'apertura con un diametro di 30 centimetri. Dunque sarà fondamentale la capacità di incassare attacchi con la fiamma ossidrica, il piccone, altri grimaldelli meccanici. Certo, più arduo battere la fantasia dei contrabbandieri, soprattutto nel creare i tunnel per passare sotto. 1070 chilometri sono protetti da ostacoli di tipo diverso, ma il confine totale è di 3200 chilometri, il confine tra Stati Uniti e Messico, ed ecco allora che i due tipi di muro, uno in cemento, uno con strutture diverse come barriere, reti tecnologici, sensori, telecamere, dovranno essere completate, è uno dei punti voluti da Trump. Secondo Trump costerà 12 miliardi di dollari, secondo il Congresso 15 miliardi di dollari, fonti governative dicono 10 miliardi di dollari, insomma fate una media. Chissà se poi succederà come in Italia, che le previsioni vengono triplicate nella costruzione di opere pubbliche, lì credo non tanto, comunque vedremo se lo faranno e come lo faranno. Se veniamo invece in Europa, c'è ancora un Erdogan molto duro. Nel weekend ha molto colpito questo appello di Erdogan: fate 5 figli, capito, di fronte alla nostra denatalità, fate 5 figli. Ha detto Erdogan ai turchi: così vinceremo, fate figli. Erdogan, che nel weekend non si è preso una pausa troppo lunga prima di tornare a aggredire la Germania, come scrive Tonia Mastrobuoni su Repubblica, pagina 9. Metodi nazisti. Ecco l'attacco di Erdogan e il gelo tra Ankara e Berlino. Il leader turco torna a attaccare la Merkel, poi minaccia anche il giornalista del quotidiano Die Welt, che è in carcere da un po' di tempo in Turchia, dicendo: è un agente terrorista. Faccio vedere la pagina Facebook mia, nel mio profilo pubblico, questo su Repubblica. Due vicende, diciamo, giudiziarie, non tanto giudiziarie, ma due vicende che riguardano due enti. Uno è l'INPS, uno è il CNEL. Ricordate il CNEL, famoso CNEL, che doveva essere abolito con referendum del 4 dicembre, poi referendum sappiamo come è andata a finire. La prima invece è l'INPS. L'INPS, Luciano Cerasa, sul Fatto Quotidiano racconta, pagina 3, che i revisori dei conti hanno denunciato il presidente dell'INPS, Boeri. Danno erariale, questa è l'accusa. Sotto accusa ci sono due nomine. Una, Luciano Busacca, ex capo segreteria di Boeri, promosso a dirigente di prima fascia. Seconda nomina, Massimo Antichi, ex redattore della Voce.info, il think tank fondato da Boeri. Antichi è stato direttore generale dell'EMPALS, direttore dell'Ufficio Studi e Ricerche Economiche della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, ed è stato anche lui, ha avuto una nomina. Per queste due nomine, l'ultimo guaio del presidente Boeri, sono stati nominati dirigenti un amico e il suo capo segreteria, e lo hanno, i revisori lo hanno denunciato. Mentre al CNEL sta succedendo, come racconta Claudio Marincola sul Messaggero a pagina 13, una guerra sotto traccia tra numero 1 e numero 2, perché il presidente Napoleone, presidente facente funzioni, ha fatto disattivare il badge del segretario generale numero 2. C'è tutta la spiegazione di questa sorta di guerra dei roses all'interno del CNEL. Si arriva con la disattivazione del badge, vai bip, ma non funziona, bip, non funziona il badge, succede, e oggi addirittura pare che siano stati chiamati come rinforzi dei carabinieri per tentare di evitare una entrata del numero 2 che vuole prendere possesso del suo ufficio. Va bene, che sta succedendo al CNEL, chi lo sa. Va bene, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali è un'intera pagina della Stampa, che continua, inizia in prima pagina con Fulvia Caprara e poi pagina 28, e riguarda il dramma di alcune star di Hollywood, nello specifico Ben Affleck, Matt Damon, Johnny Depp. Le vicende personali di queste tre persone stanno condizionando le loro carriere: alcol, divorzi, flop. Come stanno Damon, Depp e Ben Affleck? Ma chi se ne frega!